Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali internazionali. E questa settimana, del resto lo faccio da qualche settimana, ma credo che mai come quando c'è tanta incertezza c'è bisogno di strumenti di analisi che ci diano se non altro un po' di fiducia. A me personalmente da sempre questo tipo di rapporto ce l'ho con l'Economist, che è il settimanale britannico, e per darvi l'idea, per chi magari di voi non avesse notato questo particolare, noi giornalisti sicuramente abbiamo tutti un po' una mania di apparire e ci piace molto, credo, vedere la nostra firma sotto un pezzo o sentire il nostro nome all'inizio di un pezzo se viene fatto in radio. L'Economist, per darvi appunto, per farvi capire perché secondo me è così degno di fiducia, cerca di eliminare questo desiderio di protagonismo dei giornalisti, e benché tutte le persone che ci lavorano naturalmente hanno un nome, un cognome e una faccia, non compaiono le loro firme, perché in questo caso proprio il settimanale è un'opera collettiva, e questo secondo me è un'ulteriore garanzia di come sia di alta qualità, con certo sempre la possibilità di fare degli errori, ma questo è umano, quale sia la qualità del giornalismo dell'Economist. La copertina di questa settimana si intitola Free Money, cioè denaro gratis, e viene in mente naturalmente la canzone dei Dire Straits, Money for Nothing and Chicks for Free. Ma il tema qui è che tutti gli stati, tutti i governi, tutti i parlamenti stanno approvando questi pacchetti di spesa, e infatti il sottotitolo è When Government Spending Knows No Limits, quando la spesa statale non conosce più limiti. Questo tema dell'indebitamento degli stati è naturalmente pone delle incognite sul futuro, e l'Economist cerca appunto di capire, anche perché anche se le teorie economiche danno una certa lettura di questo, qui siamo in un, come dicono gli inglesi, uncharted territory, cioè mai nella storia si sono visti così tanti stati indebitarsi così tanto nello stesso momento. La causa naturalmente è la pandemia, quindi prima l'emergenza sanitaria che poi ha causato l'emergenza economica e sociale che ben conosciamo, e quindi la necessità dello Stato di intervenire. Dall'Economist di questa settimana vi segnalo anche un articolo sull'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund. La domanda che si pone l'Economist è: Did the EU just make history? Ha fatto qualcosa di veramente storico l'Unione Europea? E poi c'è un altro articolo interessante su come gli Stati Uniti stanno affrontando l'epidemia da coronavirus. Sapete che questa settimana si è superata i 4 milioni di contagi, ma il dato che ha spaventato molti, soprattutto epidemiologi, è che in 15 giorni si è passati da 3 a 4 milioni, mentre per passare da 0 a 1 milione c'erano voluti, tanto per darvi un'idea, 99 giorni, quindi più di 3 mesi. E la domanda, l'analisi, perché in questo caso è proprio un commento che fa l'Economist, è questo modo di arrivare adesso da parte del presidente Trump a riconoscere l'importanza di usare le mascherine è come approvare le cure palliative decidendo di chiudere i reparti oncologici, per dare appunto un'idea che è troppo poco e troppo tardi, anche perché parallelamente comunque il sistema sanitario americano non è pronto per questo tipo di emergenze che colpiscono persone di tutte le classi sociali e di ogni età, come abbiamo visto. E passiamo alla Gazzetta Wyborcza, il quotidiano polacco. Abbiamo visto naturalmente settimana scorsa si è occupato molto del risultato delle presidenziali, che hanno visto una vittoria di misura del presidente uscente Duda. Questa settimana c'è un interessante articolo a proposito di effetti collaterali della pandemia, degli effetti su Spotify, scrive la Gazzetta Wyborska, perché anche in Polonia naturalmente c'è stato un lungo lockdown. Non tutti vanno al lavoro in questo periodo, tanti lavorano da casa, c'è più tempo per film, serie TV, per ascoltare, per leggere. L'industria della musica dovrebbe trarne profitto. I dati invece suggeriscono l'opposto. Il declino del numero delle riproduzioni delle canzoni nella top 200 di differenti paesi europei suggerisce una diminuzione nel numero degli utilizzatori durante la pandemia. La tendenza è evidente soprattutto in Italia, dove il coronavirus ha inizialmente colpito più duramente. Se cercate Corona su Spotify, vedrete dozzine di playlist create per il lockdown. Vi si trovano canzoni che fanno riferimento scherzosamente alle circostanze come In the Air Tonight, Isolation, It's the End of the World as We Know It, e quest'ultimo brano, registrato, figuratevi, nel 1987, è tornato in auge. Queste canzoni non si trovano tra i 200 brani più popolari su Spotify e la top 200 è l'unico dato che il gigante della musica in streaming ha reso pubblico. E poi, naturalmente, ci sono tanti altri dati che corredano questa riflessione su quanta musica si sia ascoltata o comunque quanto attraverso la piattaforma Spotify nei giorni del lockdown. Un tema interessante è quello abbiamo parlato dell'economia reale con l'indebitamento dei governi, poi c'è l'economia finanziaria, le borse, ed è interessante l'intervista che Raffaele Jarusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, ha dato alla Frankfurt Allgemeine Zeitung. E il tema forse che più di attualità, perché sapete che, tornando al Recovery Fund, uno dei grandi temi per ricostruire i sistemi economici, i modelli proprio economici, è quello della svolta verde, e Raffaele Jarusalmi ha sottolineato che Borsa Italiana è stata la prima al mondo a dedicare un roadshow, che letteralmente vuol dire uno show sulla strada, e significa, è un termine finanziario, e identifica quegli eventi a tappe che fanno o le borse o le singole aziende quando stanno per quotarsi, toccando diverse città per spiegare aspetti, in questo caso della Borsa Italiana, se è un'azienda, per spiegare ai potenziali investitori perché appunto dovrebbero scommettere su una quotazione. Ma dice Jarusalmi, siamo stati i primi al mondo a dedicare un roadshow esclusivamente ai temi della sostenibilità. Questa serie di incontri tra aziende e investitori esclusivamente interessati a temi di responsabilità ambientale, sociale e di governance. Questa parola che non vuol dire governo, non vuol dire, non possiamo cercare sinonimi in italiano perché in realtà non ci sono. È una parola che in inglese viene usata a vario titolo ed è indica il modo, le scelte, variabili con le quali si decide di gestire un'azienda o un fenomeno. Per esempio, la governance appunto di un'azienda vuol dire elencare tutti gli incarichi, quali incarichi spettano al presidente, ma anche, per esempio, se all'interno dell'organico dirigenziale di un'azienda c'è, per esempio, una persona che si occupa solo di sostenibilità, oppure ce n'è una che si occupa solo di tematiche che riguardano il welfare. Adesso si parla molto di governance, aiuto del Recovery Fund, e quando invece si potrebbe semplicemente dire chi scegliere un comitato, ecco, che fa delle scelte su come usare questi fondi. Poi, naturalmente, personalmente penso invece che, siccome parliamo di futuro dell'Italia, la scelta più giusta sarebbe quella di coinvolgere l'intero Parlamento. Noi siamo, lo ripeto sempre, una democrazia parlamentare. Il governo non rappresenta tutte le forze parlamentari che a loro volta rappresentano gli italiani, e quindi per un piano che riguarda il futuro sarebbe più giusto coinvolgere il Parlamento e non solo il governo o delle commissioni, che anche in quel caso hanno una rappresentatività limitata. Ma passiamo ad altri giornali e vedremo poi appunto quanto a proposito o a sproposito dovremo sentire questa parola governance. El País ha invece, a proposito sempre del Recovery Fund, naturalmente all'indomani dell'accordo ci sono state reazioni di tutti i tipi. El País ha ospitato le reazioni dei leader naturalmente spagnoli e il capo di Podemos Pablo Iglesias ha parlato sia con El País che con Le Monde, dicendo quello che poi se volete hanno visto in tanti, sostenuto in tanti, che c'è, che è stato comunque l'accordo sul Recovery Fund una svolta, una storica rinuncia dell'Europa dell'austerità e un modo di affrontare la crisi economica diametralmente opposto a quello del 2008, che è un po' il confronto che si fa sempre. Ricorderete, nel settembre 2008 fallisce Lehman Brothers negli Stati Uniti e da lì si innesca una reazione a catena e la più grande crisi economica e finanziaria prima naturalmente di quella legata alla pandemia. Sulla pandemia, sempre El País ha dato notizia che Barcellona, che sapete è un nuovo, intorno a Barcellona, la città in Catalogna, c'è un nuovo focolaio e quindi sono stati ridotti del 15% gli accessi alle spiagge, ma vedremo poi in realtà se questo basterà. L'ultima segnalazione ve la faccio da Internazionale, il numero in edicola da ieri, la copertina si chiama, è dedicata a un articolo pubblicato dal settimanale tedesco Zeit, il valore delle lingue. I software traducono per noi, ma è solo studiando le lingue che conosciamo davvero gli altri. Un articolo bellissimo e interessantissimo su quanto possa essere interessante per chi le studia e poi anche per chi le utilizza per lavoro o anche così per puro svago, sapere appunto una lingua diversa dalla nostra madrelingua. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a tutti voi, un buon sabato, per chi vorrà ci risentiamo domani verso le 7:15 per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it